alzate verso te, Signor, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signor, gioia in me nel profondo. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi, piccoli siamo davanti a te. Come ruscelli siamo d'acqua limpida, semplici e puri innanzi a te. Le mani alzate verso te, Signor, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te.